Buongiorno, due titoli per la fantascienza oggi. George Alec Effinger, programma Fenice, edizioni Nord. Se ne parla tanto per far vedere che se il cyberpunk come movimento è così morto, insomma sicuramente finito in quanto esperienza collettiva, ha comunque lasciato delle tracce e delle influenze su, diciamo, scrittori che cyberpunk, cioè amici di Gibson e di Sterling, non erano e non sono. George Alec Effinger è un autore che scrive da parecchio tempo, direi senza infamia e senza lode, fino a che appunto 4-5 anni fa, sull'onda del cyberpunk, tirò fuori il suo famoso Senza Tregua, che non mi ricordo più se ebbe un premio, forse no, ma comunque, e che è uscito già un paio d'anni fa nella Nord. Adesso la, appunto, Nord pubblica il seguito di questo Senza Tregua chiamato Programma Fenice. L'idea più interessante di Effinger è quella di fare un, così diciamo, un cyberpunk o una fantascienza futuribile ambientata in un ambiente di tipo islamico, quindi una città del Medio Oriente indeterminata, e il suo, questo specie di quartiere ghetto che si chiama Budayen. In questo appunto scenario Effinger ha ambientato non soltanto questi due appunto romanzi, Senza Tregua e Programma Fenice, che esce adesso, ma anche diversi racconti, tra cui quello abbastanza bello che vi consiglio invece, che ha vinto il premio Nebula dell'89 o anche il premio Hugo credo, e che è Il gattino di Schrödinger, che già vi ho segnalato su queste onde. Questo libro, questo Programma Fenice, che è il seguito di appunto Senza Tregua, che quindi porta con sé gli stessi personaggi, in particolare questo Marid Odran, che è il franco-arabo o l'arabo francese, insomma, dice lui, protagonista anche del precedente romanzo, più o meno ne continua lo stile, l'ambientazione, eccetera, quindi è una sorta di congiunzione tra fantascienza e, diciamo, nero, anche, e anche questo è un tratto tipicamente cyberpunk. Direi forse è un po' meno bello dell'altro, perché secondo me si perde un po', la prima metà del libro è un po', devo dire, lunghina, insomma, prima di ambientare e portare avanti le cose, però comunque c'ha questo svolgimento non appunto eccezionale, voglio dire, non siamo di fronte ad un grandissimo capolavoro, ma è un libro che si può leggere, insomma, benissimo, e per chi è appassionato di queste personalità indotte, artificiali, daddi, moddi, infilati nelle spine, andiamo benissimo. Il secondo titolo che voglio segnalarvi è invece una ristampa di un libro che era già uscito in diverse edizioni, in diversi Urania, di Philip Dick e Ray Nelson, una delle due collaborazioni di Philip Dick, l'altra tutti saprete, quella con Zilesny, De Uscire. Philip Dick e Ray Nelson, L'ora dei grandi vermi, cioè The Ganymede Takeover, che è un libro anche questo degli anni 60, 67 credo sia, già stampato varie volte su Urania. Devo dire che ora sta nella appunto collana dei classici Urania. Devo dire che Lippi o chi per lui, o insomma Tosello, insomma, diciamo appunto redattori, non si sprecano molto, perché l'ultima di copertina è pari pari le cose che erano scritte sulla ultima ristampa nel 79-80 credo di Urania, di questo libro. Comunque non è una delle cose migliori ovviamente di Dick, ma è sempre un Dick, quindi tematiche di Chiane ci sono, e questi grandi vermi di Ganimede, insomma, sono questa specie di dominatori della Terra con i soliti intrecci complicati, un po' diciamo di Chiani, questa volta forse addirittura resi un po' più pirotecnici da questo Ray Nelson, che era ed è un fan storico dell'ambiente americano, che ha poi scritto alcune altre cose, credo mai uscite qua in Italia, ma questa sua collaborazione con Dick rimane la sua cosa più famosa. Ripeto allora quello di cui abbiamo parlato oggi, George Alec Effinger, Programma Fenice, edizioni Nord, le pagine sono 290, il prezzo mi sembra sia 12.000 lire, come sempre economici i libri della appunto Nord, ancora più economico il classico Urania in edicola dai primi di aprile, classico Urania numero 169, Dick e Nelson, L'ora dei grandi vermi, per sole lire 6.000 se non mi sbaglio. A risentirci la prossima settimana.